Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il commesso di Bernard Malamud, traduzione di Giancarlo Buzzi. Era domenica, l'ultimo giorno di marzo. Alle 8 di mattina il cielo era coperto e l'aria percorsa da raffiche di neve. L'inverno mi sputa ancora sul viso, pensò Morris spossato. Guardava i grossi fiocchi di neve acquosa sciogliersi appena toccavano terra. Fa troppo caldo perché nevichi. Domani è aprile. S'era destato con una ferita, come una fessura nel fianco, una buca nel terreno nella quale avrebbe potuto cadere se avesse messo piede fuori, là dove, fino al giorno prima, sorgeva lo spaccio di liquori. Ma la terra lo sostenne e quella strana sensazione se ne andò. Se ne andò mentre egli rifletteva che non valeva la pena di compiangere Carp per la perdita che aveva subito. Il suo portafoglio gli avrebbe evitato di patirne troppo. La sofferenza era per i poveri diavoli. L'incendio era una tragedia per gli inquilini di Carp, per Ward Minogue, morto giovane, forse anche per il padre di Ward, ma non per Julius Carp. A Morris il fuoco avrebbe fatto comodo e Carp l'aveva avuto senza spendere nulla. A chi ha sarà dato. Il negoziante era in preda a questi pensieri quando Carp, che aveva l'aria di non aver dormito affatto, arrivò sotto la neve ed entrò in negozio. Portava un cappello col bordo stretto e una bizzarra piumicina nel nastro e una giacca a doppio petto. Carp pareva imbarazzato, a disagio. Morris, sentendosi di nuovo pieno di vergogna, lo invitò nel retro a prendere il tè. Ida, che come lui si era alzata presto, non smetteva di compiangerlo. Carp bevve un paio di sorsi di tè, posò la tazza sul piattino, ma poi gli mancò la forza di riprenderla in mano. Dopo un attimo di tensione disse: «Morris, vorrei comprare la tua casa e anche il negozio». Emise un sospiro tremulo e profondo. Ida soffocò un grido. Morris era sbalordito. «Ma perché? Gli affari vanno a rotoli». «Non puoi così male», gridò Ida. «Non mi interessano i tuoi affari», replicò cupamente Carp. «È il locale che mi interessa». A due passi non poté continuare. Avevano capito. Carp spiegò che ci sarebbero voluti dei mesi per ricostruire la casa e il negozio. Invece, comprando il negozio di Morris, avrebbe potuto farlo rimettere in sesto, ridipingerlo e rifornirlo di merce in un paio di settimane, riducendo così al minimo le perdite. Morris non credeva alle proprie orecchie. Era pieno di eccitazione e temeva di sentirsi dire che aveva sognato, oppure che quel grasso pesce di Carp si trasformasse in un grosso uccello e prendesse il volo gracchiando. Non credetemi, oppure che avrebbe cambiato idea, disilludendolo crudelmente. Temendo tutto questo, Morris rimase in silenzio. Ma quando Carp gli chiese di fare un prezzo, ne aveva uno già pronto. 9.000 per la casa, 3.000 subito, il suo valore al netto di tutte le obbligazioni. E per il negozio, 2.500 in contanti. Dopotutto, pur essendo in cattive condizioni, il negozio era avviato e soltanto per il frigorifero lui aveva speso $900. Il commerciante di liquori acconsentì con indifferenza. «Ti darò $2.500 per il negozio, detratto il ricavato della vendita all'asta della merce e dell'arredamento». «Questo è affar tuo», rispose Morris. Carp non se la sentiva di continuare a discutere le condizioni. Il mio avvocato stenderà il contratto. Carp uscì e scomparve nel turbinio della neve. Ida pianse di gioia mentre Morris, stupito, rifletteva che la sua sorte era mutata. Anche la sorte di Carp era mutata, perché quel che Carp aveva perduto, lui in un certo senso l'aveva guadagnato, quasi fosse una ricompensa per l'infelicità che Carp gli aveva cagionato in passato. Il giorno prima non avrebbe certo pensato che le cose avrebbero preso quella piega. La neve di primavera commuoveva Morris profondamente. La guardava cadere scorgendovi scene della sua fanciullezza, ricordando cose che pensava di aver dimenticato. Tutta la mattina stette a guardare la neve cadere. Pensava a se stesso, a quando era ragazzo e correva nella neve, gridando ai merli che si levavano in volo dagli alberi imbiancati. Provò un desiderio irresistibile di trovarsi fuori, all'aperto. «Credo che spalerò la neve», disse a Ida all'ora di colazione. «Faresti meglio ad andare a letto. Non è bello per i clienti lasciare la neve fuori. Che clienti! Che bisogno abbiamo di loro? La gente non può camminare nella neve così alta», obiettò Morris. «Aspetta, domani sarà già sciolta. È domenica, non facciamo bella figura coi cristiani che passano per andare a messa». La voce di Ida divenne tagliente. «Vuoi pigliarti la polmonite, Morris?» «È primavera», mormorò lui. «È inverno! Mi metterò cappello e cappotto. Ti bagnerai i piedi, non hai le soprascarpe. Solo 5 minuti». «No», disse Ida seccamente. «Più tardi», pensò Morris. La neve seguitò a cadere dolcemente per tutto il pomeriggio e alla sera aveva raggiunto un'altezza di una 15 centimetri. Quando la neve smise di cadere, si levò il vento e la spingeva a folate per le strade. Morris aspettò fin quando credette che Ida si fosse addormentata e scese in cantina a prendere la pala. Si mise il cappello e un paio di vecchi guanti e uscì in strada. Con sua meraviglia il vento lo avvolse in una fascia gelida e il suo grembiule si mise a sbattere rumorosamente. Si era aspettato un tempo più mite l'ultima notte di marzo. Seguitava a pensarci con stupore, ma a spalando si scaldava. Voltava le spalle all'edificio bruciato di Carp, anche se col biancore che aveva ricoperto il nero non era poi un quadro tanto spiacevole. Tirò su una palata di neve e la buttò in strada. Si polverizzò a mezz'aria e turbinò via. Morris ricordò i difficili inverni di quando era appena arrivato in America. Dopo una 15 anni erano diventati miti, ma ora tornavano cattivi. Aveva avuto una vita dura, ma adesso, con l'aiuto di Dio, sarebbe vissuto meglio. Buttò un'altra palata di neve in strada. «Una vita migliore», borbottò. Nick e Tessie rincasavano da qualche posto. «Si mette almeno addosso qualcosa di caldo, signor Bober», ammonì Tessie. «Ho quasi finito», brontolò Morris. «Attento alla salute», disse Nick. La finestra del primo piano si aprì e Ida si affacciò in vestaglia coi capelli sciolti. «Sei diventato matto?» gridò al negoziante. «Ho finito», rispose lui. «Ci ho messo 10 minuti. Nick e Tessie entrarono in casa. «Vieni su adesso!» urlò Ida. «Ho finito!» le gridò Morris. Buttò rabbiosamente un'ultima palata di neve nello scolo. Un pezzo di marciapiede restava da pulire, ma adesso, con Ida che brontolava, Morris si sentiva troppo stanco per andare avanti. Trascinò la pala bagnata in negozio. Il caldo gli diede alla testa. Gli venne un capogiro e per un momento ebbe paura, ma dopo aver bevuto una tazza di tè caldo al limone, si sentì riposato. Mentre beveva il tè, ricominciò a nevicare. Vide centinaia di fiocchi spingersi contro la vetrina come se volessero penetrare in negozio e in cucina. Vedeva la neve come una cortina ondulante e poi in fiocchi luminosi separati l'uno dall'altro. Ida batté energicamente sul pavimento e Morris si decise a chiudere e ad andare di sopra. Ida, con l'accappatoio addosso, sedeva con Ellen nel soggiorno. Morris sedette con Ellen sul divano. Da quando aveva sentito della visita di Carp quella mattina, la ragazza aveva ritrovato il suo buon umore e sembrava di nuovo felice. «Com'è carina!» pensò tristemente. Voleva fare qualcosa per lei, farle soltanto del bene. «Che effetto ti fa sapere che vendo il negozio e la casa?» le domandò. «Lo sai, papà. Dimmelo lo stesso. Mi sento sollevata. Traslocheremo in un quartiere più bello, uno che piaccia a te. Troverò un negozio più bello. Potrai tenere per te il tuo stipendio». Lei gli sorrise. «Ricordo quando eri bambina», disse Morris. Ellen gli baciò la mano. «La cosa che desidero di più è che tu sia felice». «Lo sarò». Le si inumidirono gli occhi. «Se tu solo sapessi tutte le cose belle che vorrei darti, papà. Me ne hai date tante. Te ne darò di più belle». «Guarda come nevica», disse Morris. Guardarono la neve attraverso i vetri e Morris le diede la buonanotte. Morris giacque nel letto quasi depresso, senza poter prendere sonno. C'era tanto da fare, tanti cambiamenti cui si doveva abituare. Domani Carp avrebbe portato la caparra. Martedì sarebbe venuto l'ufficiale giudiziario e avrebbero esaminato la merce e i mobili. Gli dispiaceva lasciare il quartiere, pur non essendogli affezionato. Lo metteva a disagio il pensiero di trovarsi in un posto sconosciuto. L'idea di dover cercare, valutare e comprare un altro negozio lo opprimeva. Ciò che più gli faceva paura era di commettere un altro errore e di rinchiudersi in un altro carcere. Questi pensieri lo prostravano. Poteva sentire il suo povero cuore correre in gara con il futuro crudele. Cadde in un sonno pesante, ma si risvegliò dopo un paio d'ore in un bagno di sudore. Eppure aveva i piedi gelati e sapeva che se continuava a pensarci si sarebbe messo a rabbrividire. Poi la spalla sinistra prese a dolergli e quando cercò di respirare profondamente sentì un dolore al fianco sinistro. Capì di essersi ammalato e ne provò una rabbia angosciosa. Giacque nel buio cercando di non pensare a come era stato sciocco a spalare la neve. Doveva essersi buscato un raffreddore. No, pensò. Dopo 22 anni aveva diritto a prendersi qualche minuto di libertà. Ora avrebbe dovuto rimandare i suoi piani, anche se Ida poteva sistemare la faccenda con Carp e prendere accordi con l'ufficiale giudiziario. A poco si rassegnò al pensiero di avere un raffreddore, Forse l'influenza. Pensò di svegliare Ida e farli chiamare un medico. Ma chi potevano chiamare se non avevano il telefono? E se Helen si fosse vestita e avesse usato il telefono di Saint-Père, sarebbe stato imbarazzante per lei suonare il campanello e svegliare un'intera famiglia. Anche destare dal suo prezioso sonno un dottore che, dopo averlo esaminato, gli avrebbe detto: «Amico, cos'è questa smania? S'è buscato l'influenza, stia a letto». Per sentirsi dire questo non aveva bisogno di far venire un medico in pigiama. Poteva aspettare qualche ora fino al mattino. Morris si assopì, ma nel sonno si sentiva scuotere dalla febbre. Svegliandosi, gli si rizzarono i capelli in testa. Che avesse la polmonite? Dopo un po' si calmò. Era ammalato, ma la malattia non era cosa nuova per lui. Probabilmente, anche se non avesse spalato la neve, si sarebbe ammalato lo stesso. Negli ultimi giorni non si era sentito troppo bene. Mal di testa, ginocchia fiacche. Eppure, pur cercando di rassegnarsi all'accaduto, sentiva un'enorme amarezza per essersi ammalato. Va bene, aveva spalato la neve in strada, ma perché doveva nevicare in aprile? E se nevicava, perché lui doveva ammalarsi nell'attimo stesso che metteva piede all'aria aperta? Il pensiero che qualunque cosa facesse pareva trasformarsi in un evento irrimediabile gli dava un senso disperato di frustrazione. «Ti davo da mangiare 3 volte al giorno, Efraim», gli spiegò. «Perché dunque hai abbandonato tuo padre così presto?» Efraim aveva troppa vergogna e non rispondeva. Ma Morris, in un impeto d'affetto per lui, era così piccolo, un bimbo a quell'età, gli promise di aiutarlo a cominciare la vita. «Non ti preoccupare, ti farò frequentare una buona università». Efraim, da persona educata, distolse il viso, ridendo maliziosamente. «Ti do la mia parola». Il ragazzo sparì, mentre la sua risata si faceva più forte. «Resta vivo!» gli gridò dietro suo padre. Quando il negoziante sentì che si stava destando, cercò invano di riprendere il sogno. Aveva gli occhi lucidi, pensava alla sua vita con tristezza. Non aveva provveduto alla sua famiglia e questo era il suo disonore, pover'uomo. Ida dormiva al suo fianco. Voleva svegliarla e chiederle perdono. Pensò a Helen. Sarebbe stato terribile se fosse rimasta zitella. Gemette un poco, pensando a Frank. Provava un grande rimpianto. «Ho sprecato la mia vita per niente». Questa era la terribile verità. Cadeva ancora la neve?